Le 7 di sera, andando alla macchina. Beh, è ora di tornare a Firenze. Yeah, it's been a long day. Usciamo. I'm shattered. Anch'io sono stanco morto. Morto? Yes, like dead. Oh, yeah, me too. Anch'io. That Vanini, he talked for hours. Sì, per ore. E quante sigarette. Oh, yeah. Almeno 30. Io detesto il fumo. Really? Anch'io. Anche lei? Ah, abbiamo qualcosa in comune.